Ciò. Vabbè, devo pigliare il video così no. parlo a Basiliana, cosa vuoi chiudere Basiliana su internet, per carità, a Sassari. Tutto bene, eh. Ciata, hai già detto. Mamma mia, non sarà.